quella porta e cosa vedo? Tutto quello che potete immaginare, meglio ricordare nella vostra vita. Milioni di ricordi appoggiati su scaffali, alcuni polverosi, altri nuovi, molti fanno piangere e ricordare. Quanto fragili siamo noi, qui, a cercare sempre oggetti per riempire qualche vuoto, e alla fine siamo legati sempre a loro, per ricordare ora chi siamo, ma capisco che pesano, ce li portiamo sempre appresso, e ci impediscono di scappare via. Miliardi di ritratti, disegni e cartoline, e quadri appesi in ogni dove, mi riportano alla mente i volti che non saluto da cent'anni ormai. Ora mi si stringe il cuore, il corpo un poco trema, mancano anche più stronzi che han camminato insieme a me. Vorrei saperti ancora disperato, per non saper cantare sempre più in alto, ma felice e contento di vivere anche solo io.